ma guardo come, come. Se vengo che mangia, allora sì. Calma. Prova. Bisogna stare molto attenti, non vede molte. Noi ora ci assimiliamo un attimo. Sì. Quello è scontato. Quello è scontato. Ma io la verità, sono un po' che l'avevo preso per una terra di vuote. Ma adesso dovrebbe esserci pesce, dai. Penso. E come arriva il caldo? Ancora. Come arriva il caldo, vedi come ti arriva. Capo, chi è che vuole entrare? Avanti. Passo, sì, Mario, cos'è combinato? Mario, sì, buonasera, non ti avevo riconosciuto, credo che era quell'intelligente che mette la portante, buonasera. Mario, guardate il mio che forse ce l'hai in basso. Ma sostituita di là? Della sostituita la batteria? No, è quella qui, è quella che dai i piedi, però l'ho trovata, non è perso un giocato a parte un po' troppo, capito? Adesso ho finito di carica, ma già, se lo accendo, adesso mi sono portato per le batterie. Oh, è la vecchia. Capo Mario, perché devo stare alzando e... devo stare alzando il volume per sentire a te e abbassando per sentire a Gianni. Qua c'è a fondo scala. Se passo l'immodulazione basta. Ehi, a capo, dai, sistema, metti le batterie, almeno ci sentiamo alla grande qua. Ma Gianni? Gianni! Capo, ma ci sei o non ci sei? Sì che ci sono. Capo, stavo chiamando e non mi hai risposto. Avanti. Oh, a me attende. Tu aspetta un secondo che ti spiego dopo. Sono sempre nel solo, perché c'è un microfono, cazzo, che non era attaccato. Si è staccato dallo spinotto, io stavo parlando col microfono senza essere attaccato. Ah, capo, dai, vai. Ha svittato, se ne è uscito da... capito? Se ne è uscito dallo spinotto. Se va più bene, ne aiuterai, va più da... Caffa, chi è? Che beh. Fatto? Sì, sì, da tre ore già. Capito cosa è successo? Se va più bene con il microfono in mano, che lo spinotto in terra, staccato. Ma cos'è? Ma l'hai mollato? Cos'è successo? No, se deve essere mollato, o mi sono dimenticato di affittarlo quando l'ho messo, perché l'avevo pronto per cambiare la batteria. Cappa. Adesso vedo. Ma su c'ha batteria, cazzo. Che non fa niente. Che va bene lo stesso. Vabbè. Quando ti intendi che su crucino già si compare. Vabbè, l'ho messo e già va bene lo stesso. Io infatti no, avrei messo DM1000 ma no, già andava già così, allora che avevo messo, consumarmi batteria, comunque mi sto usando, sto utilizzando l'RX, ieri ho utilizzato quello grande. Beh, bene, stare. Andiamo bene. Già, già va sempre lui. Sì, già non è tenuto male, dai, c'è cioè, tenuto un bel. Però ti stavo dicendo, anche io potrei usare l'altro, non usare quello, però qua questo apparato, diciamo che non è che consumi tantissimo, perché io lo uso molto, devi anche considerare il fatto che io tutte le sere uso questo microfono, e quindi lo sfrutti al massimo. Beh, certo, te l'avevo usato di meno, te l'ha durata di più la batteria. Ah, un mese comunque già, non fa niente, già va bene. Che fai? Tanto ne ho batteri di riserva, a voi. Capo, quando è così conviene tenerle sempre. Ci avevo sempre le batterie. Adesso non ne sto tenendo, perché oramai se mi si scarica, una non me ne preoccupo. C'ho l'altro apparecchio che non ne ha bisogno e via. Antonio? Avanti! Prova. E beh, adesso è cambiato? Adesso è una bomboletta, Mario. Sì, allora c'avevo ragione io, C'avevo ragione io, che era la batteria già. Allora. Sicuramente sì, perché adesso sì. Sempre sono io, oramai chiarpa Oscar. Cava. Beh, vabbè. Comunque, adesso vai bene. Anzi, mi sembra essersi un pochettino ancora. Sarebbe ancora meglio perché è troppo forte. E cava. Adesso va alla grande qua, Dai. Sto già che sto abitando la capola di dietro. Capa, fai, ma pure fai. Così anche, se si può risparmiare le batterie è meglio. Capa, tanto io sto usando l'altro. Questi li uso così durante quest'ora a me. Se no io di solito uso altri, l'uso il nuovo uso. Ma abbiamo finito tutto. Comandiamo Gianni. Ebbene, male. E penso che microfono stai usando? Questo è un test, capito? E un microfono almeno ce l'ho più di 30 anni. Ce l'ho, capito? È molto migliore di tutti. C'ho anche il microfono, la ZC, capito? D'accordo. Infatti. Ma non ti due bene. Ma questo gesto non l'avevo mai sentito. Così ha approfittato, sì. No, è normale, capito? È normale, come il turno più 3, capito? Perché c'è anche il turno più 3. Forse Antonio non lo conosce. Io ho voglia che lo conosco, il turno più 3. Ha voglia, Mario, se ce l'abbiamo. Questo però è uno dei primi che era uscito tantissimi anni fa, No, con questo che sto modulando lo stesso, capito? È emotivo, molto in gamba, molto in gamba. I termici, in modo di genere, modello, di diffusi 344. Gamba, già è buono già come microfono. A voi, adesso in questo momento sto utilizzando il microfono a tavolo, della ZG, l'MB+5 con l'Elbex. Prego, registrato il Brecchi, una buona sera. Bene, riprendete a voi, grazie di tutto, perché adesso ritiro tutto, e qui mi si accende anche la lampadina adesso. Mi lampeggia quando parlo, mi lampeggia la lampadina che c'è al microfono. Ciao Gianni, se non l'hai fatto buona carica, ciao Antonio, e saluto anche l'amico che vuole entrare. Continuo di corso, io chiudo. Ciao Mario, ce la risentiamo. Avanti Gianni, e poi fa entrare il break. Signori. Avanti il break, dai, facciamo entrare subito. Sì, passa di positivo. Grazie signori per avermi fatto entrare, e quasi tutto cordialità a tutti. Da questa parte Giuseppe. Buonasera Giuseppe. No, fatemi sentire Giuseppe. Giuseppe, mi stavo chiudendo, ancora c'aveva il cassetto aperto. Grazie per essere stato per i salutoni, ti cambiati al centro e mi saluti con Rea. Io chiudo. Kappa di positivo, salutoni anche a te e buon proseguo di serata. Kappa, avanti, chi stava parlando? Kappa, no, ero io, ero Giuseppe, Antonio sono. Kappa, ciao Antonio, ti ho riconosciuto, anche il doppio rum, Kappa di positivo. Non hai conosciuto? La Maria? Maria sono, Antonio. Non lo so, Giuseppe, Mario Mao. Kappa, Mario Mao, ci sentiamo spesso e volentieri, è sempre un piacere sentirlo. Ciao Mario. Ciao, ciao, anzi, salutami con Rea e buona carica se non l'hai fatto. Kappa, Kappa, Mario, dai, ok. Ah, comunque è tutto a posto, segnala la fondoscala, la modulazione è buona, va la grazie. Ok Mario, dai, ce ne sentiamo. Danni? Giuseppe? Kappa, eccomi. Kappa, a Trabacco. Andando. Ah, Kappa, Kappa. Eia. Comunque c'è uno che ha voglia di aprire la faccia, lo sai? Sì, e chi di grazia? Kappa, è uno che sta facendo dei incazzare sul 5. Apre la faccia. KK, se ne trovano di tutti i colori, di bianchi, di rossi, di neri, di gialli, di tutte le maniere se ne trovano qui in modulazione, Antonio, non ci sta problema. KK, ma lei non sa che noi giriamo spesso, abbiamo registrato la modulazione, appena grazie a te muoio, si vede. Si vede una gattata di pugni a faccia, si vede. Miserabile, ragazzi. Ma, però pure a tempo. Cosa ha combinato per me? Parlando male. È un camionista. Parlando male, dicendo un sacco di cose, ma questa volta però si è attaccato con le persone sbagliate. L'altra volta c'è, mi ha detto tutti i colori a qualche. Stavolta ha toccato male però. Dove c'è invece un tracciato? Kappa di positivo, dai, ma tiriamo avanti lo stesso. Ma se non sbaglio non c'era il doppio rum poco fa. Ma che c'era, l'ho chiamato ma no, non mi risponde più. Signora andrà giù. Kappa, dai, anch'io chiudo adesso, quando sono arrivato in stabilimento. E ce la risentiamo alle prossime, dai. Salutami il doppio rum se ti capita e mandagli tanti saluti da parte mia. Kappa, dai, ce la risentiamo dal camion, dai. Kappa, ci aggiunge, dai. Kappa, dai, ce la risentiamo a presto. Hola, se adelanto fai capricci questo microfono, Kappa.